24. La storia. La globalizzazione ci rende più dipendenti gli uni dagli altri e non è possibile rifiutarla. Ma sarà un processo negativo o positivo? È una rivoluzione capitalistica. Alla fine del XX secolo, l'economia di mercato, il sistema capitalistico, è diventato l'unico modello per la stragrande maggioranza della popolazione. La nuova economia mondiale è alimentata dalle innovazioni tecnologiche e dai cambiamenti politici, ma nulla sarebbe potuto accadere senza un radicale mutamento di pensiero. Erano le voci di Dick Cheney e Bill Clinton. Bentornati su Mix 24. Da oggi fino a venerdì, nella parte della storia di Mix 24, insieme con Marina Milone faremo un viaggio nella storia dell'economia del mondo. Si tratta di un racconto che cerca di interpretare gli eventi del XX secolo ispirati dal pensiero economico di due grandissimi economisti, John Keynes e Friedrich von Hayek. È la storia di una battaglia tra due teorie economiche, quella della pianificazione economica e quella del libero mercato. Una battaglia che ancora oggi continua a dividere il mondo. Autunno 1940. Un gentleman inglese e un esule austriaco sono amici, ma ideologicamente rivali, e il conflitto tra le loro posizioni cambierà per sempre la storia. John Maynard Keynes è un giovane economista formatosi a Cambridge. È convinto di difendere la libertà pianificando l'economia. Friedrich von Hayek, austriaco, nato a Vienna, vive a Londra dove insegna la London School of Economics. Hayek è convinto che l'ingerenza sui governi nell'economia sia una minaccia per la libertà. A parlarcene sono i giornalisti Daniel Yergin e Joe Stanislav. La questione centrale delle controversie ideologiche degli ultimi 100 anni è stata proprio se l'economia debba essere basata sui prezzi o pianificata dallo Stato. Per decenni a dominare l'economia del mondo occidentale sono state le idee di John Maynard Keynes. Keynes era convinto che l'economia di mercato fosse soggetta a eccessi e che i governi sarebbero dovuti intervenire nei momenti di crisi. Hayek invece riteneva che il mercato si sarebbe regolato da sé. Due amici, due economisti che, sconvolti dalle miserie della Seconda Guerra Mondiale, cercheranno di cambiare il mondo attraverso le loro teorie economiche, affinché vi sia pace e prosperità tra i popoli. Per molto tempo il pensiero di Keynes avrà la meglio su quello di von Hayek. Ma facciamo un passo indietro. Negli anni venti, subito dopo la Prima Guerra Mondiale, il mondo sembra rifiorire. Nella prima parte del XX secolo, Hayek e Keynes vivono il primo stadio della globalizzazione. È un'epoca in cui la vita quotidiana di ognuno sta cambiando radicalmente. Innovazioni tecnologiche come il telegrafo e il telefono rivoluzionano le comunicazioni. I battelli a vapore e le ferrovie contribuiscono a rendere il mondo più piccolo. Milioni di persone emigrano in altri paesi senza bisogno di passaporto. Così Keynes descrive il mercato globale in cui le merci circolano liberamente. Un londinese poteva ordinare per telefono qualsiasi prodotto del pianeta, sorseggiando il tè del mattino, e vederselo recapitare in poco tempo sulla porta di casa. Il militarismo e l'imperialismo, gli scontri razziali e culturali erano poco più che notizie di cronaca sulle pagine del giornale. Che periodo straordinario nel progresso economico dell'umanità fu quell'era che giunse al termine nell'agosto del 1914. Hayek parla di quell'evento in maniera più succinta. Non sapevamo quanto la nostra civiltà fosse fragile. L'assassinio dell'arciduca austriaco per mano di un nazionalista innesca la Prima Guerra Mondiale. Ci vorranno 80 anni affinché si riaffermi nel mondo un'economia globale. La Prima Guerra Mondiale fu un evento decisivo. Ci spinse a riflettere sul problema dell'organizzazione politica delle società. Hayek giura a se stesso di lavorare per un mondo migliore. Ed ecco la distruzione del vecchio ordine causata dalla Prima Guerra Mondiale che la rivoluzione russa vuole creare un mondo migliore. Ispirati dalle teorie economiche di Marx, i bolscevichi vogliono abbattere il capitalismo. Lenin, il capo dei rivoluzionari, esorta i lavoratori di tutto il mondo a unirsi contro l'economia globale. il commercio e la proprietà privata diventano illegali. Lenin promette di proporre fine allo sfruttamento dell'uomo sull'uomo. John Maynard Keynes insegna a Cambridge, è amico di scrittori ed artisti, conosce uomini politici e primi ministri. Durante la Prima Guerra Mondiale è stato consulente del governo britannico per l'economia di guerra. Alla fine del conflitto fa parte della delegazione di pace inglese a Versailles. Gli alleati vittoriosi pretendono che la Germania paghi il conto della guerra, le cosiddette riparazioni. È un momento decisivo per le sorti del mondo. Ce ne parlano il biografo di Keynes, Robert Skidelsky, e l'economista Jeffrey Herkurt. La preoccupazione principale di tutti gli statisti era spremere una Germania già dissestata economicamente. Keynes riteneva che le riparazioni fossero sproporzionate e insostenibili per la Germania e che le conseguenze sociali, politiche ed economiche sarebbero state devastanti. Arrabbiato e disgustato, Keynes si dimette. Torna in Inghilterra e va a vivere con il suo amico pittore Duncan Grant. Se riteniamo che la Germania debba rimanere una nazione povera e che i suoi figli debbano morire di fame, la nostra vendetta sarà completa. Ma nulla poi potrà impedire lo scoppio di una guerra che distruggerà la civiltà e il progresso delle nostre nazioni. Parole davvero profetiche quelle di Keynes dopo la conferenza di pace di Versailles. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Insieme a Marina Milone stiamo raccontando la storia dell'economia del XX secolo attraverso le due più importanti teorie economiche che hanno influenzato i governi delle nazioni. Le teorie di Keynes e quelle di von Hayek. La battaglia tra l'idea di pianificazione dell'economia e il libero mercato che ancora oggi fanno discutere gli economisti e gli storici nel mondo. Nella Russia sovietica Lenin ha abolito il libero mercato. Lo Stato controlla l'economia, i prezzi, i salari sono fissi, ma il grande esperimento marxista è in crisi. Lenin deve fare i conti con un vero disastro economico. La Russia sovietica è un posto triste, piegato dalle carestie e dalla fame. Lenin sapeva che il paese doveva cambiare rotta e impose una nuova politica economica. Gli agricoltori potevano vendere i prodotti della propria terra, le piccole imprese potevano operare. Così Lenin risvegliò l'economia. L'ala più rivoluzionaria del partito lo attaccò aspramente per aver tradito i principi del bolscevismo e del marxismo. Lenin, che aveva già subito un infarto, salì sul palco e dimostrò di avere ancora la verve del passato. Fece un intervento al vetriolo molto sarcastico. Disse che i suoi detrattori erano stupidi perché lo Stato, il governo, i bolscevichi avrebbero continuato a controllare le leve del comando, l'acciaio, le ferrovie, il carbone, l'industria pesante, quelli che definì i pilastri dell'economia. È la cosiddetta NEP, Nuova Politica Economica di Lenin. Poco dopo Lenin muore, ma i suoi seguaci sono convinti che la storia sia dalla loro parte. E infatti in poco meno di 30 anni non solo la Russia, ma l'Europa dell'Est, la Cina, ovvero più di un terzo dell'umanità, vive secondo la politica economica marxista-leninista. Stalin introduce il principio della pianificazione centralizzata. Il Partito Comunista gestisce ogni aspetto dell'economia. Mentre il comunismo forgia il suo futuro, la sorte del capitalismo sembra segnata. Intanto la Germania e l'Austria subiscono le conseguenze economiche della sconfitta. Costretti a pagare risarcimenti di guerra insostenibili, i governi semplicemente stampano più denaro. Il risultato è un'inflazione inarrestabile. Una iperinflazione. Per andare a fare la spesa serve una sacca piena di banconote. Hayek, che lavora in un istituto di ricerche statistiche, ha 200 aumenti di stipendio in 8 mesi. I soldi costano meno della carta da parati. Le banconote da 1 milione di marchi vengono utilizzate per accendere le stufe. Un paio di scarpe che nel 1913 costavano 12 marchi, nel 1923 si vendono a 32 trilioni di marchi. Nella birreria preferita di Hitler, un boccale di birra costa 1 miliardo di marchi. Insomma, l'iperinflazione manda in fumo i risparmi della media borghesia. La strada ai nazionalsocialismi è aperta. Ce ne parla Karl Otto Pohl, presidente della Banca Centrale Tedesca negli anni Ottanta. Fu una delle ragioni del successo di Hitler e dei nazisti. Ebbero il sostegno di tutti quelli che avevano perso il proprio patrimonio. Hayek giudica l'inflazione un male che corrode la società e mina le basi della democrazia. La lotta all'inflazione diviene un punto fondamentale della sua teoria economica. Durante gli anni venti, mentre l'Europa soffre ancora le ferite della Prima Guerra Mondiale, l'America è in pieno boom. Gli americani spendono, si divertono, acquistano automobili, comprano liquori di contrabbando, soprattutto azioni, tante azioni. Giocare in borsa è diventato il passatempo preferito degli americani. Le azioni più richieste sono quelle delle nuove emittenti radiofoniche. La radio è l'internet degli anni venti. Un'industria che sembra nata dal nulla. Le più gettonate sono le azioni della RCA, il cui costo passa in poco tempo da $1.50 a $600. È una classica bolla di mercato. Finché il giovedì nero, il 24 ottobre 1929, la bolla scoppia. I prezzi crollano. La caduta dei prezzi sembra inarrestabile. Il crollo della borsa di New York fa precipitare l'America nella disperazione. Negli anni 30 si verificò una crisi senza precedenti. La disperazione dilagava, mentre i prezzi crollavano sempre di più. Gli americani non erano in grado di guadagnare, di pagare, di spendere, né di consumare. Tutto si svalutava. Svendevano le macchine agricole, i negozi di abbigliamento. La crisi fu totale e naturalmente investì anche le banche. La gente è presa dal panico e corre a ritirare i sudati risparmi. Si vedevano file ininterrotte di gente che si snodavano fuori dalle banche intorno all'isolato. Centinaia di persone aspettavano giorno e notte pur di poter ritirare il loro denaro. I milioni di risparmiatori che non ci riescono perdono tutto. Negli anni successivi alla crisi del 29, dovette chiudere metà delle banche statunitensi. Il governo non riesce a fermare la spirale della crisi, anzi, contribuisce a peggiorare la situazione. Si è smesso di costruire edifici, laboratori e fabbriche hanno chiuso, i treni praticamente non circolano più. Milioni di americani, uomini, donne e bambini, sono in fila per il pane o per una scodella di minestra. 3 milioni di cittadini hanno perso il lavoro e l'esercito dei disoccupati ha raggiunto la cifra di 15 milioni. In Gran Bretagna gli operai, molti dei quali reduci di guerra, marciano per tutto il paese per chiedere al governo di rispettare il loro diritto al lavoro. Intanto, in Italia, Germania, Spagna, gli operai stanno marciando al suono di un tamburo diverso. Dopo il fallimento del capitalismo, il fascismo ha gettato la sua cupa ombra sull'Europa. John Maynard Keynes vede i suoi peggiori incubi diventare realtà. E scrive un libro sulla Grande Depressione e sulle soluzioni per uscirne, per tentare di salvare il capitalismo dai suoi mali. Keynes vuole riscrivere le regole dell'economia. Vede l'economia di un paese come un'entità unica, come una macchina che può essere guidata. Ascoltiamo ancora il suo biografo Robert Skidelsky. Keynes fu il vero inventore della macroeconomia. Concetti che oggi diamo per scontati come il prodotto interno lordo, il livello di disoccupazione, il tasso di inflazione. Molte categorie economiche moderne sono state inventate da Keynes. Scrisse un libro che pensava avrebbe rivoluzionato il modo di guardare ai sistemi economici e che ci avrebbe fornito gli strumenti per fare in modo che operassero meglio. Keynes scrisse il libro nel momento del crollo dell'economia mondiale e del pericolo del crollo dei governi democratici. Nel 1933 Hitler era divenuto cancelliere della Germania, le democrazie perdevano terreno e con loro anche le libertà civili. Keynes doveva dare una soluzione al dramma della Grande Depressione, altrimenti la democrazia sarebbe stata soffocata dal totalitarismo. In pieno disastro economico viene eletto presidente Franklin Delano Roosevelt. Sua moglie Eleanor descriverà il giorno del suo insediamento come una giornata molto solenne, un po' terrificante. Questa grande nazione sopravviverà come è sempre sopravvissuta. Si risolleverà e prospererà. Le parole piene di fiducia di Roosevelt fanno il giro del paese. Roosevelt intraprende un severo programma di riforme. Roosevelt e il suo New Deal combattevano una guerra. Erano in guerra contro la depressione che cercarono di fronteggiare con programmi di sussidi ai disoccupati e agli indigenti, con programmi per trovare lavoro ai disoccupati. Costruirono dighe, autostrade, crearono parchi nazionali. Allo stesso tempo, istituirono un sistema per disciplinare il capitalismo, come mai era stato fatto prima, per proteggere gli americani dai rischi di un mercato senza regole. Roosevelt teme che l'economia di mercato non funzioni. Per questo istituisce un esercito di nuove agenzie per regolare il sistema bancario, la borsa e il sistema capitalistico stesso. L'architettura del nuovo quartier generale della Commissione per il Commercio Interstatale celebra le nuove regole che tengono a freno le forze di mercato e gli effetti del capitalismo. È il New Deal. L'industria viene sottoposta a nuove leggi e regolamenti. Ascoltiamo ancora il giornalista Daniel Yergin. L'industria aeronautica fu emblematica della politica governativa. Accadeva che degli imprenditori fondassero una compagnia che diventava molto competitiva e poi falliva. A loro succedevano altri imprenditori che a loro volta fallivano. Perciò, attraverso il New Deal, si decisero interventi per stabilizzare i prezzi dei biglietti aerei e per determinare le tratte più convenienti, ponendo così fine al circolo vizioso di espansione e recessione dell'industria aeronautica. Fu proprio questo il sistema con cui si risanò l'economia americana. Nel 1936 John Maynard Keynes pubblica la sua Teoria Generale, una brillante analisi su come combattere la depressione economica. Keynes diventa il più influente economista grazie alle sue teorie sulla gestione statale dell'economia. La soluzione di Keynes alla disoccupazione era aumentare la spesa pubblica per arrivare alla piena occupazione della popolazione. I governi, sostiene Keynes, dovrebbero andare controcorrente. In tempi favorevoli dovrebbero ridurre le spese e creare surplus. In tempi sfavorevoli bisogna invece accrescere la spesa, gestire il deficit e ridare ai lavoratori un maggior potere d'acquisto. Dimostrava che la disoccupazione poteva calare senza ricorrere ai campi di concentramento. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24 con il nostro racconto sulla storia del mondo attraverso l'economia. La teoria di John Keynes trova la sua prima vera applicazione nel New Deal di Roosevelt. L'università di Harvard diviene la base intellettuale di Keynes in America. Uno dei suoi apostoli è John Kenneth Galbraith. Come ho detto più volte, ho avuto un ruolo importante nella diffusione delle idee di Keynes oltreoceano. Quando tornai negli Stati Uniti, trovai che molti avevano letto la Teoria Generale, che portò una ventata di speranza e ottimismo nel paese. Le idee di Keynes arrivano a Washington e producono un'inversione di rotta nelle politiche economiche. ti opponevi agli imprenditori più conservatori, chiedevi finanziamenti e impiegavi i lavoratori, salvandoli dalla disoccupazione. Questa era la cosa più importante. Non ti preoccupavi dei debiti che si accumulavano, o forse sì, ma lo facevi comunque. Ma ci vorrà una guerra mondiale affinché le teorie di Keynes vengano adottate definitivamente dai governi. Il governo statunitense chiede dei prestiti ed investe nell'economia di guerra. La disoccupazione cala e la depressione finisce. Donne e uomini per cucire le uniformi, operai per fabbricare armi e munizioni, meccanici per produrre jeep e camion, navi e carri armati, ausiliari per costruire caccia e bombardieri. Incaricato di vigilare sui salari e sui prezzi, John Kenneth Galbraith vede l'economia rifiorire. Non potevamo avere dimostrazione migliore delle idee keynesiane. Io e altri giovani economisti a Washington, che come me erano convinti delle sue teorie, vedevamo la situazione molto chiaramente. In un comunicato radiofonico, Keynes auspica che ciò che si era dimostrato valido in guerra funzioni anche in pace. Se gli investimenti negli armamenti cureranno la piaga della disoccupazione, avremo avviato un grande esperimento. Dal male potrà nascere il bene. Impareremo qualcosa che potrebbe tornare utile quando pace sarà fatta. Hayek, che insegna alla London School of Economics, teme che il mondo nuovo di Keynes sia un passo falso in una direzione sbagliata. Con il suo libro La via della servitù, Hayek critica il crescente consenso per le teorie di Keynes. Dedicato ai socialisti di tutti i partiti, è un grande successo e viene pubblicata anche una versione a fumetti. Il suo messaggio è semplice e diretto. Una eccessiva pianificazione statale significa che il governo ha troppo potere e il potere del governo sull'economia distrugge la libertà e rende gli uomini schiavi. Per Hayek, la pianificazione statale è il primo passo verso uno stato totalitario. A parlarcene l'economista Jeffrey Herkert e poi il biografo di Keynes, Robert Skidelsky. Hayek riteneva che la libertà fosse un principio assoluto e che bisognasse lasciare che il sistema competitivo si regolasse da sé. E se questo significa che la disoccupazione aumenta notevolmente, bisogna semplicemente convivere con essa. Hayek sta perdendo la battaglia ideologica e a parlarne è lui stesso. Godevo di una buona reputazione come economista nel 1944, quando scrissi La via della servitù, che venne considerato persino all'interno della comunità accademica un vile tentativo di distruggere i grandi ideali da parte di un reazionario. In un grande albergo di Bretton Woods negli Stati Uniti, delegati delle nazioni di tutto il mondo, con la presenza anche di Keynes, si riuniscono per pianificare l'economia post-bellica. La conferenza di Bretton Woods si risolve nella creazione della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, istituti nati per dare stabilità all'economia mondiale e per evitare un'altra depressione come quella degli anni 30. Così Keynes sottolinea l'enorme importanza e la grande occasione di quel momento storico per un nuovo equilibrio mondiale fatto di pace e di prosperità. Non è mai stata presentata una proposta così ambiziosa su scala mondiale per aumentare l'occupazione nel presente e la produttività nel futuro. E non so se il mondo abbia compreso l'importanza degli organismi che stanno per nascere. Keynes non vivrà a lungo, è malato e stanco per il superlavoro e la salute lo abbandona, ma la sua reputazione ed influenza gli sopravviveranno. La guerra è finita. Le truppe tornano a casa. La conferenza mondiale di pace dei tre alleati ha luogo in un palazzo di Potsdam, un sobborgo di Berlino. Truman, Churchill e Stalin si riuniscono per pianificare la pace e per ridisegnare la mappa dell'Europa. I loro diversi sistemi economici offrono strade alternative alla prosperità, ma la Grande Depressione continua a far sentire i suoi effetti. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, pochi avevano ancora fiducia nell'economia di mercato. Molti non volevano più andare in quella direzione, cercavano una soluzione migliore. Durante gli anni terribili della guerra, l'Inghilterra era stata governata da una coalizione di conservatori e socialisti. Winston Churchill, il grande leader nella guerra contro i tedeschi e capo del Partito Conservatore, si aspetta una facile vittoria. Ovunque va, folle enormi lo acclamano come un eroe. A capo dello schieramento opposto c'è Clement Attlee, leader del partito laburista. Attlee sostiene che l'Inghilterra, avendo pianificato l'economia in tempo di guerra, allo stesso modo può farlo in tempo di pace. Churchill invece, influenzato dal libro di von Hayek, La via della servitù, si oppone alla pianificazione. Nessun sistema socialista può essere introdotto senza una polizia politica, una specie di Gestapo. Attlee è un uomo dai modi gentili, cristiano e socialista, approfitta della gaffe di Churchill. Ascoltiamo Ralph Harris dell'Istituto degli Affari Economici in Inghilterra. Attlee esagerò parlando di questo Friedrich August von Hayek, un professore straniero con un leggero accento tedesco. Ecco i risultati pervenutici alle ore 15. Conservatori 180, laburisti 364. Churchill è stato sconfitto. Gli inglesi hanno votato per una nuova Inghilterra socialista. Che genere di società volete? Attlee promette al suo partito di costruire insieme una nuova Gerusalemme. Portiamo avanti questa battaglia secondo lo spirito di William Blake. Non mi ritrarrò dalla battaglia mentale. Non lascerò la mia spada dormire nella mano finché non avremo edificato Gerusalemme nella verde e piacevole terra d'Inghilterra. Il poema Gerusalemme di William Blake diviene l'inno del movimento laburista. Per chi era sopravvissuto alla guerra sembrò un atto di giustizia. Perché non sfruttare le risorse che già possedevamo? Mettemmo in discussione il concetto che la proprietà privata fosse sacra. Dopo che il partito laburista conquista il potere, i privati sono costretti a vendere le proprietà. I laburisti adottano un'economia mista, nella quale le nuove industrie nazionalizzate coesistono con l'impresa privata. Le industrie statali come il carbone, le ferrovie, l'acciaio non arricchiscono più il padronato e gli azionisti, ma contribuiscono al benessere di tutti. È il parlamentare laburista Tony Benn a parlarne. Fu un atto di rigenerazione, di rinnovamento. Ci diede speranza e questa speranza produsse lo Stato sociale, la sanità pubblica, la piena occupazione, i diritti sindacali e ricostruì il paese dal nulla. Lo Stato fornisce assistenza a tutti, dalla culla alla tomba. Nessun ricco o povero deve temere più la povertà, la malattia o la vecchiaia. Si riteneva fosse una politica migliore, piuttosto che far gestire il mondo a giocatori d'azzardo interessati al profitto e non al nostro benessere. Mix 24, la storia. Bentornati su Mix 24 con la storia. L'Inghilterra ha votato per il partito laburista e in Gran Bretagna le idee di Keynes avanzano. Alla fine della guerra intanto la Russia è diventata un gigante industriale e militare. Con l'Armata Rossa e la polizia segreta Stalin impone il suo sistema economico a mezza Europa. Il socialismo avanza, il capitalismo e il libero mercato sembrano arretrare. Il mondo è diviso, sta iniziando la guerra fredda. Svizzera, 1947. Hayek organizza una conferenza in un hotel fuori moda sulla cima del Monte Pelerin, la montagna del pellegrino. Uno dei delegati è un giovane economista di Chicago, Milton Friedman. Lo scopo del convegno era chiaro. Hayek e gli altri convenuti pensavano che la pianificazione economica fosse una tendenza globale. ed erano decisi a costruire una corrente di pensiero per contrastarla. La democrazia è impossibile senza un'economia libera. Un'economia libera è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per la democrazia. Eppure Hayek aveva detto all'assemblea che c'era una cosa che bisognava imparare dai socialisti. Hayek tributò un grande omaggio agli intellettuali socialisti. Disse che la forza dei socialisti sta nel loro coraggio di essere idealisti, nell'avere una teoria, un progetto, una visione, e di lottare per questo anche nei momenti più bui. Hayek afferma che la lotta per far cambiare idea al mondo durerà per oltre 20 anni. La guerra ha ridotto la Germania in macerie, l'economia è inesistente, i mercati distrutti, i negozi vuoti. I russi hanno occupato l'Europa dell'Est e aspettano solo di mettere le mani sul resto del paese nelle zone occupate dagli inglesi e dagli americani. L'iperinflazione ha reso la moneta tedesca carta straccia. Ma nell'inverno del 48 c'è un episodio che farà discutere gli economisti. Nella Germania controllata dalle forze alleate viene designato direttore degli affari economici Ludwig Erhard. Le autorità avevano imposto un sistema di contenimento di prezzi e salari per tenere sotto controllo l'inflazione. Ma questo non è mai servito a tenere l'inflazione sotto controllo. E il risultato era un'economia praticamente immobile. In questa situazione il mercato nero prosperava e le sigarette americane erano valuta corrente. Per le transazioni più importanti, la valuta usata era il cognac. Gli alleati introducono una nuova valuta, il marco tedesco, per sostituire una valuta che ormai non vale più niente. Ma per Erhard questo non è abbastanza. Senza informare gli alleati, va alla radio e fa un annuncio straordinario. Ludwig Erhard, quest'uomo leggendario, senza consultarsi con nessuno e contro il parere delle forze d'occupazione americane, decise di abolire il sistema di controllo dei prezzi. Avete sentito la voce di Karl Otto Pohl, presidente della Banca Centrale Tedesca negli anni Ottanta. Il giorno dopo, il generale Lucius Clay, comandante del settore americano nella Germania occupata, chiede conto ad Erhard del suo operato. Lo raccontano per noi gli economisti Alfred Bosch e Milton Friedman. Clay disse: cosa ha fatto? Ha modificato il sistema di controllo dei prezzi. Erhard replicò: Herr Clay, non l'ho modificato, l'ho abolito. E Clay disse: i miei consiglieri mi hanno detto che è un grosso errore. Erhard rispose: Herr General, i miei consiglieri mi hanno detto la stessa cosa. Di colpo il mercato nero si dissolve. La gente smette di accumulare e sul mercato tornano quelle merci scomparse da anni. La liberalizzazione dei prezzi diede impulso al mercato. I negozi si riempirono di merci. Fu l'inizio del miracolo economico tedesco. Fabrizio Galimberti, economista del Sole 24 Ore, che sarà con noi per tutta la settimana. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. La battaglia ideologica tra Keynes e von Hayek, allora, tra pianificazione e libero mercato, oggi è ancora così netta? Beh, direi che è un po' rischiato attribuire a Keynes la parola pianificazione, direi più intervento dello Stato nell'economia, però è vero che c'era una contrapposizione fra la posizione interventista di Keynes e quella invece liberista del lasciar fare, lasciar passare, laissez-faire, laissez-passer di von Hayek. E oggi è ancora così? Ma io direi che oggi la battaglia è stata vinta da Keynes, nel senso che quando c'è stata la grande recessione la gente, i governi non si sono lanciati su posizioni ideologiche, sono andati espandendo i deficit pubblici in modo da supportare l'economia, quindi hanno chiaramente adottato un'impostazione keynesiana. Quindi io direi che quando il problema si pone quando la casa brucia, la gente va verso Keynes e non verso von Hayek. Quindi è stato un po' un ritornare indietro. Ma in che cosa la crisi del 29, la cosiddetta Grande Depressione, è diversa rispetto a quella che viviamo oggi dal 2008 in poi? Beh, direi che la crisi del 29, che diventò poi la crisi degli anni 30, è stata molto più grave. Non mi ricordo perché non ero ancora nato, però so che durante gli anni 30 la disoccupazione in America toccò il 25%, mentre invece anche nella crisi recente non ha mai superato il 10%. Quindi la differenza è che la lezione del 29 è stata imparata e i governi non hanno fatto gli stessi sbagli. Che cosa abbiamo imparato da quella crisi? Abbiamo imparato che non bisogna rispondere innanzitutto chiedendo a riccio le economie e facendo del protezionismo, ma mantenendo i mercati aperti. E poi abbiamo imparato che quando i privati non spendono, deve essere lo Stato a spendere e a mantenere attivo il circuito della domanda. Beh, questo poi non sta capitando almeno in Europa, giusto? Beh, in Europa in effetti c'è stato un eccesso di austerità dovuto ai problemi dell'istituzione, forse proprio europea. Tornando alla Germania degli anni 30, lo abbiamo raccontato, è piegata da un'iperinflazione che manda in fumo i risparmi della media borghesia. È il ricordo dei tedeschi di quel momento storico che li induce ad avere oggi il terrore dell'inflazione, un po' quello che stavamo dicendo sull'austerità. Sì, direi di sì. Mi ricordo che un passato presidente della Bundesbank di una decina di anni fa, Helmut Schlesinger, ricordava quando lui si trovò con la fidanzata a bere un bicchiere di vino in una stanza di Sadorna per consolarsi del fatto che l'iperinflazione, non quella del 23 ma quella che seguì subito dopo la seconda guerra, aveva di nuovo mandato in fuga i loro risparmi. E quindi è questa memoria storica di due episodi di grossa inflazione. Ma è giustificata questa paura? Ma io direi di sì, che è giustificata, nel senso che l'inflazione è iperinflazione, l'inflazione è molto elevata ed è evitare a tutti i costi, ma questo non vuol dire che bisogna rifiutare qualsiasi inflazione, anche quella del 3-4%, che invece potrebbe lubrificare l'andamento del sistema economico. Ecco, che effetti negativi ha? Forse li stiamo vedendo sulla nostra pelle. Oggi abbiamo un po' il problema contrario, abbiamo il problema non della inflazione ma la deflazione. Questo eccesso di austerità ha portato a dei prezzi che scendono, aiutati anche da un petrolio che è crollato, e quindi il problema oramai non è più quello dell'inflazione, il problema è quello della deflazione che, come diceva Keynes, sono due brutte bestie tutte e due, però se uno dovesse scegliere fra l'una e l'altra direbbe che un po' di inflazione è meglio della deflazione. Ma ci può essere sviluppo senza inflazione? Sì, sì, senz'altro ci può essere sviluppo senza inflazione, e questo è quello che accade in Germania. Accade in Germania, ma accade anche, vedete, in Cina. La Cina continua a crescere, magari non al 10% ma al 7%, ma l'inflazione è all'1,5%, quindi perfettamente possibile avere sviluppo senza inflazione. Grazie Fabrizio Galimberti e ci sentiamo domani. D'accordo. Mix 24.